Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 20 marzo, il sole in regione sorto alle 6:11 e tramonterà alle 18:19. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Sono questi mesi di profondi cambiamenti per il mondo dell'agricoltura alle prese con tutte le crisi che avanzano. Anche per questo la Fiera di Udine, in vista di AgriEst 2023, ha voluto fare il punto dell'esistente proiettandolo nei prossimi mesi per cogliere il cambiamento e dare risposte nell'appuntamento fieristico del prossimo anno. A seguire, nelle storie di Angelo Floramo, il formaggio, a suo dire ammantato da un alone di sacralità, se non fosse altro per la leggenda sulla scoperta della ricotta. Di castagne e della loro coltivazione, con tanto di provvidenze pubbliche, si parla nella rubrica delle normative, seguite da una scheda su lamponi e more di rovo, gustosissimi frutti di facile coltivazione. Nella rubrica delle api, dopo due puntate dedicate al miele, oggi si parla del polline e in quella degli alberi secondo contributo sulle potature, quelle che non si dovrebbero mai fare. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Road to AgriEst 2023. O meglio, aspettando AgriEst, il mondo dell'agricoltura, ma non solo il mondo dell'agricoltura, anche quello dell'università, della scienza, si stanno interrogando sull'agricoltura che cambia. La Fiera di Udine, proprio in previsione dell'appuntamento del 2023, ha organizzato tre incontri che guardano al futuro: la produzione agricola, il cibo, l'innovazione globale e locale, un evento a tre tappe che ha preso il via. Primo relatore, magnifico rettore dell'Università di Udine, Roberto Pinton. Quale agricoltura dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Non per i prossimi anni, perché le cose qui stanno cambiando a una tale velocità che bisogna avere un raggio corto d'azione. Lo scenario, diciamo, internazionale ci sta facendo anche riflettere su quelle che erano già linee di tendenza iniziate da tempo, cioè se l'agricoltura era avviata verso un percorso di sostenibilità, valorizzazione delle produzioni locali e naturalmente la attenzione ai cambiamenti climatici, alla salvaguardia dell'ambiente. È chiaro che queste situazioni recenti hanno anche riportato l'attenzione al fatto che l'agricoltura è pur sempre l'attività deputata alla produzione di cibo. Lo slogan europeo è abbastanza chiaro e potrebbe darci una mano. L'agricoltura farm to fork, una strategia ovvero dall'azienda alla forchetta, quindi dal lavoro nei campi al lavoro sulla tavola in cucina. Ma sì, credo che questo sia un segnale molto chiaro in cui ci viene detto e stabilito dalla comunità europea che la produzione primaria, la produzione di alimenti deve arrivare fino al consumatore. Quindi in poche parole la produzione è di cibo e noi sappiamo oggi che l'alimentazione è fondamentale naturalmente per tutti e deve essere garantita a tutti. Ma è necessario che il cibo sia anche sano e anche il consumatore naturalmente ha una forte attenzione non solo alla natura del cibo ma anche alla sua provenienza. Detto questo, una fiera come quella di Udine come dovrebbe o potrebbe appunto cambiare per parlare di agricoltura in maniera moderna? L'idea è quella di arrivare ad AgriEst, insomma l'ultima edizione è stata nel 2019, il prossimo anno, con degli appuntamenti di preparazione, no? Possiamo dire, come diceva giustamente lei, aspettando AgriEst. E l'idea è stata quella di creare questi tre appuntamenti in cui si lanciano stimoli e si ricevono. Quindi uno, il primo, che è già stato il 16 marzo, che ha parlato dell'aspetto a criticità delle filiere, un secondo dedicato alla digitalizzazione, l'innovazione in agricoltura e il terzo al cibo del futuro. Ecco, tre elementi che sintetizzano piuttosto bene quello che lei ha detto nella visione che potrebbe essere futura anche di un'impostazione di AgriEst, non più la fiera delle macchine o solo per tecnici ed esperti, ma anche una capacità di analizzare tutto il processo from farm to fork. In conclusione possiamo dire che bisogna superare il concetto della produzione agricola come commodity e più che altro portarlo nell'ambito di una economia, adesso quelli bravi direbbero, circolare. Assolutamente, sono d'accordo, ma d'altra parte questa è una strada non solo inevitabile, ma anche economicamente e anche dal punto di vista ambientale e di politica locale, che deve essere perseguita e ineludibile. Parlando del formaggio, oggi Angelo Floramo lo accosta alla sacralità, alla metamorfosi dei suoi componenti, latte, caglio e sale, per non parlare del dono della ricotta attribuito addirittura a Sant'Ermacora. Essendo soggetti a caglio e fermentazione, i formaggi entrano a buon diritto, assieme al vino e alla birra, nel novero di quei cibi che sono sottoposti a forze misteriose, lunari. Le loro metamorfosi si compiono al buio delle cantine, in stanze interrate o seminterrate, dove il potere delle anime dei morti è più forte che altrove. La ricotta è fra tutti esemplare a dimostrare tale principio. La sua invenzione viene tradizionalmente attribuita in Friuli addirittura a Sant'Ermacora, che assieme a Fortunato fu assistente di San Marco, evangelista e terapeuta, primo evangelizzatore delle nostre genti. La favola racconta che il santo, giunto in una poverissima casera della Carnia, chiese ospitalità, ma il pastore, non avendo altro da dargli se non un po' di polenta e una ciotola di latte, si scusò dicendo che la povertà non gli permetteva di offrirgli nemmeno del formaggio. Fu allora che Ermacora gli suggerì di far bollire il latte in una caldaia, di raffreddarlo con acqua fresca e poi di versarci dentro qualche goccia di aceto. Quindi benedisse la pentola e, come per miracolo, affiorò una crema bianca che il pastore raccolse. Ecco nata la ricotta. Tutti i golosi sanno bene quale mescolanza di sapori sa regalare un tagliere ricco di scaglie profumate di erba e di fieno, di terra e di sale, capaci di raccontare al meglio il territorio, la fatica del lavoro che lo modella, la meraviglia dei paesaggi attraverso i quali si manifesta. Moltissimi sono i prodotti friulani capaci di farlo, a partire dal più antico e noto di tutti, il Montasio, dall'omonima meravigliosa cresta montana, lo Jof che ne porta il nome e che si erge con i suoi ciglioni di roccia fino a quota 2754 metri sul livello del mare. I documenti più preziosi che ne attestano la produzione risalgono al secolo XIII. Raccontano di come i monaci della grande abbazia benedettina di Moggio Udinese affinarono le tecniche di produzione controllando la monticazione del bestiame su quei pascoli di alta quota che gelosamente controllavano sotto la loro giurisdizione. Questo formaggio, degustato fresco, regala il sapore dell'erba di monte mescolata ai fiori. Mano a mano che invecchia, il gusto si arrotonda, facendosi piccante. Oltre l'anno di stagionatura, la grana si sbriciola, regalando il sapore ombroso del legno e della pietra, gli aliti freddi della notte autunnale e quelli freschi, rugiadosi, densi di resine, dei mattini primaverili. Poche gocce di miele ad accompagnarlo possono ingenerare mistiche visioni. In una recente puntata di Vita nei Campi, il professor Raffaele Testolin ci ha parlato della castanicoltura nella nostra regione. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, oggi vediamo gli ultimi sviluppi normativi su questo tema. Sappiamo tutti che in tempi non troppo lontani il castagno ha rappresentato una fonte insostituibile di sostentamento in compresori collinari e montani dove fattori climatici e orografici non permettevano coltivazioni estensive. Anche se purtroppo certe tradizioni sono state abbandonate, la castanicoltura da frutto potrebbe ancora oggi rappresentare una interessante fonte di reddito, e non solo in zone marginali, in linea con gli indirizzi comunitari di agricoltura sostenibile del cosiddetto Green Deal. Il Friuli Venezia Giulia ha raccolto questa sfida adottando una specifica norma, la legge regionale 4 del 2022, proprio per favorire il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti da frutto, ma anche la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate. Quali strumenti mette in campo la norma? Anzitutto prevede l'adozione di un piano castanicolo regionale in coordinamento con il piano castanicolo nazionale già esistente. Il piano dovrà essere predisposto dall'ERSA e dovrà anzitutto fare un inventario dei castagneti esistenti, compresi quelli abbandonati, mappare le aree vocate, individuare le varietà autoctone e le migliori tecniche di coltivazione. Ma sono previste anche attività di ricerca e sperimentazione attraverso il coinvolgimento delle università degli studi di Udine e Trieste, attività di formazione professionale e supporto tecnico alla difesa fitosanitaria. Ci sono anche incentivi economici? Beh, naturalmente sì, anche se per il momento il budget è piuttosto limitato. Sono previsti contributi per il recupero colturale e produttivo di castagneti da frutto abbandonati, ma anche per la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate. In questi casi è richiesta la piantumazione di una superficie minima di 1500 metri quadri con materiale vivaistico di origine autoctona. Sono anche previsti aiuti per la realizzazione di sistemi di protezione contro la fauna selvatica, ungulati in particolare. Infine, ma non ultimo per importanza, la legge regionale si propone anche azioni di sviluppo delle filiere castanicole favorendo la concentrazione dell'offerta attraverso realtà associative, senza dimenticare che la castanicoltura rappresenta anche un patrimonio storico, culturale e etnografico che può essere valorizzato in chiave turistico e ricreativa. Lamponi e more di rovo sono i due frutti dei quali oggi si occupa il professor Raffaele Testolin con una serie di distinguo che illustrano la ricchezza di queste specie. Quella dei lamponi e delle more di rovo è una grande famiglia botanica piena di specie e di ibridi, ma noi questi aspetti li lasciamo ai botanici di professione e ci concentriamo sulla coltivazione di queste due deliziose piante da frutto. Partiamo dal lampone. Ci sono varietà a frutto rosso, le più comuni, ma anche a frutto giallo e più raramente nero. La cosa più importante da sapere è tuttavia che ci sono due tipi di lamponi, quelli che producono una sola volta in tarda primavera sui polloni sviluppatisi l'anno precedente, che sono detti uniferi, e i lamponi cosiddetti rifiorenti, che producono anche in autunno sui polloni dell'anno. Attenti a non eliminarli. La produzione, tuttavia, è maggiore al secondo anno, come per i lamponi uniferi. Ci sono poi le more di rovo, una specie botanica diversa dal lampone. Le piante producono more di colore nero, sorosi per i puristi della botanica. Le piante producono d'estate dopo i lamponi e quindi può essere interessante coltivare lamponi e more per avere questo tipo di frutti freschi per un periodo più lungo possibile. Dimenticavo, ci sono varietà di more di rovo senza spine. Vi suggerisco di controllare le piante quando le acquistate. Le spine sono sempre poco gradite. Sono piante più vigorose e produttive del lampone, ma possiamo trattarle allo stesso modo per quanto riguarda la coltivazione. Si allevano su filari distanti 2-3 metri tra di loro, dei pali alti 1,5-2 metri per le more, sorreggono due fili a cui vanno legati i polloni, cioè i fusti che prendono origine dalle radici. Concludo dicendo che i piccoli frutti sono facili da coltivare, richiedono impegno al momento della raccolta, ma per il resto la gestione di queste piante non richiede grande impegno. La potatura del lampone è semplice. I polloni di 2 anni vengono eliminati alla base alla fine della stagione. Tutto qua. Lo stesso vale per la mora di rovo. I frutti, siano essi lamponi o more di rovo, si consumano freschi. parlato del miele, di che cos'è e come viene prodotto all'interno dell'alveare. Oggi con Moreno Greati, che ci cura la rubrica dell'apicoltura e delle api, parliamo di un altro prodotto strategico all'interno dell'alveare, il polline. A differenza del miele, che ha attirato da sempre l'uomo, il polline viene raccolto da non molti anni. In Italia questo tipo di produzione, tutto sommato, è ancora poco diffusa e ciò che si produce non è in grado di soddisfare le richieste. Il polline viene sottratto alle api quando queste rientrano all'alveare con le pallottoline attaccate alle cestelle. Per favorire il distacco delle pallottoline, frontalmente all'alveare vengono posizionati dei dispositivi, chiamati trappole pigliapolline. Queste trappole sono munite di una griglia che consente il passaggio delle api, ma provoca il distacco delle pallottoline che cadono in una cassetta di raccolta che viene svuotata quotidianamente. Il polline appena raccolto è molto umido, per cui a temperatura ambiente va incontro a processi fermentativi che lo alterano irrimediabilmente. È bene sottolineare che il polline ammuffito o fermentato è pericoloso per la salute umana. Quindi, una volta raccolto, il polline deve essere essiccato entro tempi brevi mediante disidratatori a corrente calda. In alternativa, il polline fresco si conserva mediante congelamento. Ogni specie vegetale produce polline con proprietà e composizioni chimiche diverse. Mediamente il polline fresco è composto da acqua, al 16-17%, che poi scende al 2% una volta essiccato, proteine, 20%, aminoacidi liberi, 22%, zuccheri, 37%, e altre sostanze, 5%, come vitamine, sali minerali, oligoelementi e pigmenti. Nel polline sono contenute quasi tutte le sostanze necessarie allo sviluppo e alla crescita di un organismo e proprio per la sua particolare composizione può essere considerato un ottimo ricostituente generale e aiuta il nostro corpo a funzionare meglio. Più che a uno o a qualche componente, i suoi benefici sono da ricercare molto probabilmente nell'azione sinergica di tutti i suoi costituenti, che aiutano appunto l'organismo a svolgere in modo migliore le sue funzioni. La quantità giornaliera sono un paio di cucchiaini da caffè per un adulto e un cucchiaino per i bambini. Il momento opportuno per consumarlo è al mattino, a digiuno, ed è una buona norma continuare l'uso per 20-30 giorni, rinnovandolo lungo l'anno, specialmente al cambio di stagione o quando se ne sente la necessità. La scorsa puntata con Giorgio Valvason, che assieme a Roberto Barocchi e Aldo Cavani conduce la rubrica Amici Alberi, che è tracciata già nel loro ultimo libro, avevamo cominciato a parlare delle potature, argomento spinosissimo, e oggi Giorgio Valvason ci dice quali sono le potature da non fare mai. Parlando sempre dell'albero, io vedo che vengono effettuati interventi costanti, è vero. Ecco, parlando di interventi che non dovremmo mai fare, potare un albero qualche tempo prima della caduta delle foglie, poi potare quando è in fioritura, un tiglio ad esempio, quando è in fioritura non lo si deve potare, e così anche il cespuglio naturalmente. Ci sono dei cespugli che fioriscono su rami d'annata, sui rami dei 2 anni, e praticamente uno deve saper cogliere il momento giusto. Ad esempio la forsizia, io ho visto tante volte che la forsizia, come le rose, vengono potate, le ho viste potate in febbraio, naturalmente perdiamo per quell'anno la fioritura, perché fiorisce sul ramo dei 2 anni la forsizia. E così ci stiamo avvicinando al caso della capitozzatura. Per quanto riguarda la capitozzatura, è un'operazione che non dovremmo mai assolutamente fare, perché noi togliamo l'albero le sostanze di sopravvivenza, perché una volta eliminato una branca, praticamente abbiamo asportato la sostanza non solo per la branca, bensì anche per la radice, perché noi eliminando la branca eliminiamo di conseguenza la radice comunicante, la radice che dà la possibilità di portare sulla linfa al ramo e il ramo di mandare la linfa elaborata in un secondo momento alla radice per poterla far vivere, al tronco e alla radice in pratica. Quindi si destabilizza l'albero. E con Reginetta Giacomini l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo e prezzi sostanzialmente stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 38,8 a 39,3 euro il quintale IVA esclusa, l'orzo peso specifico 62,65 da 36 a 37 euro, il frumento da 38,50 a 39,50 e la soia da 68,5 a 69 euro. Andamento statico l'ortofrutticolo di Udine, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero sono quotate da 1,10 euro a 1,20 il chilogrammo IVA escluso, le zucchine da 2,20 a 2,30, i finocchi da 1,60 a 2,80, le melanzane tonde da 1,50 a 1,60, i pomodori in grappolo da 2,40 a 2,60, la scarola riccia da 2,80 a 3 euro, il radicchio rosso tondo da 1,60 a 2 euro, quello di Treviso precoce da 1,80 a 2 euro, i kiwi da 2,50 a 4 euro, le arance navel da 1 euro a 1,30 euro, le tarocco da 1,40 a 2,40 euro, le fragole da 4,50 a 6,50 euro il chilo. In leggera flessione i prezzi nel settore della pesca. Alla cooperativa San Vito di Marrano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 18 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le sogliole da 7 a 25, le ombrine da 9 a 28, le canocce da 4 a 13, le orate da 5 a 18, le passere da 6 a 12, i laterini da 8 a 11, i gamberi da 13 a 17, le capesante da 12 a 14, le sepie da 10 a 14 euro e rompi da 22 a 30 euro. Quotazione in aumento per i prodotti caseari. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,50 e 6,80 euro il chilo, IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,60 e 7,90, lo stagionato di 12-15 mesi tra 8,20 e 8,60. Migliora anche il prezzo del latte crudo di origine FVG, quotato franco stalla dalla Commissione Camerale di Pordenone e Udine, tra i 40,5 e i 41 centesimi il litro, più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. La situazione meteorologica in questa fase continua a mostrare segni di blocco della circolazione, con un'alta pressione ancorata all'Europa centro-settentrionale e una depressione in evoluzione intorno alla Turchia. Per la nostra regione ciò prefigura un persistente flusso di correnti orientali a tutte le quote, con temperature inizialmente al di sotto della norma. Ecco che domani e martedì, a fronte di un cielo sereno, avremo il soffio della bora moderata sulla costa e a est, e locali gelate notturne in pianura, specie nelle zone più riparate dal vento. Le temperature massime invece saliranno quotidianamente. Mercoledì e giovedì il cielo seguiterà ad essere ben sereno e le temperature rapidamente si sposteranno su range ben più primaverili, con le minime via via più lontane dai rigori invernali e le massime, che lontano dal mare, si innalzeranno ben oltre i 20 gradi. Contestualmente il flusso orientale si spegnerà. Venerdì potrebbe passare una modesta saccatura da nord verso i Balcani, ma le conseguenze per la nostra regione rimarrebbero limitate a un nuovo lieve calo termico. Dall'orizzonte successivo continua a mancare la grande assente delle ultime settimane, ovvero la pioggia, la cui ricomparsa sullo scenario regionale è al momento appesa a qualche troppo timido segnale nel lungo termine, naturalmente tutto da verificare e eventualmente confermare. In ogni caso, raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. A San Benedetto e la Sisile chiate il suo tetto, ovvero a San Benedetto il 21 marzo, la rondine trova il suo tetto dove fare il nido. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.